Buonasera, visto che i tempi sono abbastanza insomma, stretti, diamo il via a questo primo incontro curato da Gianni e Giuseppe Garrera, che sono i curatori della mostra Vita Minore, San Francesco e la Santità dell'Arte Contemporanea, una mostra che abbiamo inaugurato il 21 febbraio, quindi insomma, qualche giorno fa alla fine, che però sta già avendo, da questo punto di vista, un bel riscontro anche di presenze, e credo che anche il pubblico che oggi qua so già di persone che si sono prenotate, cosa che invito a fare anche per i prossimi incontri. Insomma, c'è una bella adesione, quindi fa molto, molto piacere per una mostra che l'ho definita così, insomma, da un certo punto di vista, una vera sfida intellettuale, da un certo punto di vista, anche per rileggere la figura di San Francesco attraverso delle scintille, dei frammenti che sono di francescanesimo, che sono appunto le opere d'arte individuate da Gianni Giuseppe Garrera. E c'è questo, dicevo, nutrito programma di incontri che comincia oggi, dedicato a Carla Lonzi, e ogni appuntamento sarà poi seguito da una visita tenuta o da Gianni o da Giuseppe Garrera alla mostra. Quindi appunto, essendo i tempi stretti, fino al 1 aprile abbiamo un orario che ci impone insomma una chiusura del museo alle 5, poi più avanti dal 1 aprile insomma, riusciremo ad estendere di un po', quindi sarà meno tempi serrati, però appunto lascio la parola a Giuseppe Garrera, che ringrazio pubblicamente, un fatto più volte, per l'intera concezione del progetto, anche per questa bella serie di incontri. Grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti, e comincio subito, immediatamente, con questo breve approfondimento di una delle artiste intellettuali esperte, storiche dell'arte contemporanea che noi abbiamo scelto di mostrare nella nostra esposizione tra coloro che appartengono alla santità dell'arte contemporanea, che hanno conservato, noi ritroviamo in lei dei frammenti autentici, straordinari, radicali, che ci ricordano la parabola francescana, alcuni degli elementi forti del francescanesimo. Allora, in termini molto semplici, Carla Lonzi noi la conosciamo per due identità, se vogliamo, due personalità. In realtà ci accorgeremo che ce n'è una terza che non ha potuto esprimersi per la morte prematura. 1931-1982, questa è la parabola della vita terrena di Carla Lonzi. Carla Lonzi è conosciuta nel mondo dell'arte come una delle più grandi critiche d'arte che noi abbiamo avuto e potevamo avere. Perché potevamo avere? Perché dal 55 fino al 70 lei è allieva della scuola di Longhi, amica di Marisa Volpi, Anna Banti, la sua prima pubblicazione nel 1955 su Paragone, cioè la rivista di Longhi, di Roberto Longhi. Dunque comincia una carriera prestigiosissima, di grande acutezza, intelligenza, e rivolta contro il suo stesso maestro Longhi a un'attenzione incredibile per l'arte contemporanea. Diventa amica, sodale di Cunellis, Giulio Paolini, Luciano Fabbro, Sai Toimbli, una generazione un po' più vecchia, un po' più nuova, quasi contemporanea a lei. Questo è solo lo schema. Segue la Galleria Notizie, pubblica interventi, presentazioni di mostre, quasi Luciano Fabbro, Giulio Paolini, Galizio nella prima parte della sua attività. All'improvviso, nel 70, lascia tutto, abbandona tutto, cioè esce dal mondo dell'arte, dal mondo delle gallerie, dal mondo dei musei, dal mondo delle organizzazioni, anche dal mondo delle amicizie strette con artisti che stanno diventando importanti. Perché? Perché nel 70 ormai sta esplodendo l'arte povera, Celant, eccetera. Fuoriesce totalmente. Con lei si dovrebbe portare un'amica che è una sua alter ego, è una sorta di anima gemella, che è Carla Accardi, ma ha una condizione. Carla Accardi può rimanere in questa nuova esperienza che sta per iniziare, di una radicalità incredibile, che è il femminismo, che è l'autocoscienza femminista e la lotta rivolta femminile, si chiama proprio rivolta femminile, ha una condizione che anche lei, come artista e pittrice, fuoriesca dal mondo dell'arte, fuoriesca da quello che è il mondo maschile, il mondo del patriarcato. Allora, noi abbiamo un critico d'arte, una critica d'arte straordinaria, che fuoriesce, lascia totalmente tutto, carriera, riscontri, soddisfazioni, vanità, pubblicazioni, per iniziare in maniera radicalissima, con l'esclusione totale dal mondo maschile, l'esperienza di rivolta femminile. Nel 1970 esce, lo vedrete in mostra, l'originale, il manifesto di rivolta femminile. Lo dico subito e chiedo anche scusa, nel senso che parlare del femminismo di Carla Lonzi è veramente molto duro. Lo premetto, se potessi anche, spero di no, andare a, in un certo senso, toccare, infastidire la sensibilità personale di ognuno di noi. Però io credo che il confronto diretto con il pensiero femminile di Carla Lonzi sia tra le cose, per me personalmente, ma per noi, più indigeribile che possiamo immaginare. Cioè, non ci sono compromessi. Quando dico radicale, è proprio radicale. Faremo adesso un breve schema. Allora, prima fase è questa, la seconda fase è quella del femminismo. Nel 1981, cioè alla vigilia della morte, Celant, questa per darvi un po' la parabola, dal 70 all'81 lotta femminile, rivolta femminile, autocoscienza, gruppi di autocoscienza. Il manifesto lo leggerete, finisce con una frase: comunichiamo solo con donne. Comunichiamo solo con donne. Quando io ho cominciato a occuparmi di arte femminista, ho scritto ad alcune del gruppo femminista di Carla Lonzi, con tutta la gentilezza di una mail in cui ho detto avrei desiderio, e la risposta è stata nel 2010, per cui non comunico con maschi, cioè non ti rispondo. Sono rimasto offeso e gelato allo stesso tempo. Potevo interrompere la mia passione per l'arte femminile o per la ricerca femminile, ma devo dire, il gruppo più stretto, il gruppo stretto che mi interessava intervistare, conoscere, in realtà sei un usurpatore, perché io in questo momento sono solo un usurpatore, e in senso più proprio. Allora, dicevo, 1981, lei non lo sa, cioè lo sa perché poi è gravemente malata, però accade in quell'anno, Celant organizza una mostra importantissima a Parigi che si intitola Identité italienne, l'arte dopo il 1959 al Bubourg, al centro Pompidou, in cui fa una sorta di carrellata meravigliosa di tutta l'esperienza dell'arte povera, concettuale, di ricerca, body art, con quelli che erano stati alcuni dei suoi grandi amici, e chiede a Carla Lonzi un intervento critico. Puoi contribuire, lei manda due pagine straordinarie in cui dice praticamente che è una porcheria tutto quello che stanno facendo, è una porcheria il mercato, è una porcheria il potere del museo, il potere delle gallerie, il potere del prestigio, il potere della carriera, l'individualismo, dice, disgustoso e nauseante dell'artista. Ha detto, che differenza c'è tra quando l'ho conosciuti io e adesso? Semplicemente che sono diventati ancora più enormi i loro studi, no? Il loro atelier, hanno bisogno dell'atelier perché devono sfogare la loro creatività. Ma non è solo questo che è interessante, cioè che lei mandi un testo a Celant in cui contesta la mostra, cioè l'idea stessa della celebrazione. Ma il fatto, lo sappiamo dalla sorella Marta, che lei ha scritto a Celant per ritornare nel mondo come artista. L'ultimo grande progetto di Carla Lonzi era presentarsi come artista. Di questo noi ovviamente non sappiamo nulla, perché nell'82 la morte ce la porta via e dunque non sappiamo niente. Di tutta questa esperienza c'è un episodio che invece fa parte dell'infanzia e dell'adolescenza, che sarà determinante per la Lonzi femminista. A 9 anni, qui molto precoce, ha compiuto i 9 anni, lei ha fatto quelle che si chiamavano allora le colonie estive. Ha fatto una colonia estiva a Badia di Ripoli, dove ci sono le suore dell'Immacolata Concezione, era un convento di suore, Carlalonzi chiede di poter ai genitori essere messa nel convento e fare le scuole interne al convento. Per 3 anni e mezzo, 3 anni completi, rimane nel collegio convento di clausura delle suore della Immacolata Concezione, della Badia di Ripoli, insieme a altre compagne. È un seminario dunque chiusissimo, vedono i genitori una volta all'anno, stanno tra ragazze, con le suore, solo femminile, chiaramente, studia, gioca, ha le sue prime grandi amicizie all'interno di questa esperienza. Dopo 3 anni il padre decide a forza di toglierla dal collegio, perché ha capito una cosa, che il collegio, pur essendo così piccola, 10 anni, 11 anni, è una sua affermazione di autonomia, di stacco dal padre, dal patriarcato, dalla famiglia. Cioè, non ha questa intuizione il padre ha semplicemente un'intuizione: mi ritrovo un'estranea in casa, mi trovo un po' estranea, un po' nemica, qualcosa di diverso. La figlia in collegio per noi potrebbe essere una forma di ipereducazione, invece diventa una educazione rivoltosa. Questa figlia in collegio sta sfuggendo al controllo, a quello che dovrebbe essere il normale iter educativo di una brava ragazza del 1940-43. Siamo molto avanti, 1940-1943. L'esperienza del collegio sarà determinante del femminismo di Carlalonzi. Per la sua devozione a Santa Teresa di Lisieux, a Santa Giovanna d'Arco, a Santa Teresa d'Avila, cioè alle mistiche, e così cominciamo a capire che il suo femminismo è imbevuto di misticismo, pur all'interno di un pensiero materialista e ateo, e dall'altra il culto di Santa Chiara. Allora è strano che noi abbiamo la forma più estrema di femminismo con una radice mistica di questo genere, cioè che ha le sue radici nella clausura, nell'educazione delle suore e in un'idea molto forte. L'idea è questa, che era un'idea di Santa Chiara, trasmessa a San Francesco. Non è il mondo maschile che mette noi nella clausura, siamo noi che mettiamo il mondo maschile fuori. Cioè, grande gesto che sarà di Carlalonzi, il mondo maschile va fuori dal perimetro. A questo punto vorrei farvi un breve schema di alcuni dei principi fondamentali del femminismo di Carlalonzi. E sono come un piccolo prontuario. 1. Non emancipazione, ma liberazione. Scritto grande come una casa. Non emancipazione, ma liberazione. Che significa? Significa che la donna non fa carriera e non si emancipa all'interno del lager maschile e patriarcale. La storia dell'uomo, che è una storia maschile, che è una storia patriarcale, è una storia di 10.000 anni imbarazzanti, vergognosi e orrorosi. È fatto di sangue, conquista, dominio, differenze sociali. Lonzi diceva una cosa: fermiamo un attimo in questo momento, lo possiamo fare anche adesso, e quello che è tragico lo possiamo fare anche in questo momento, cioè in questa ora, fermiamo e diamo una guardata al mondo. Il mondo è l'inferno in atto. Poteri, i cosiddetti potenti della terra, nazionalismi, egoismi, avidità. Lonzi dice: la donna dovrebbe fare un'emancipazione all'interno di questa storia. No, la storia dell'uomo maschile, la storia maschile va abbandonata. Si esce. Lei fa un paragone molto violento, l'ho già utilizzato parlando della Lonzi. Ci dice una cosa: se siamo all'interno di Auschwitz, e ricordatevi quello che Primo Levi ci ha detto purtroppo poco prima di uccidersi. Auschwitz è il modello del mondo, non è l'eccezione. Il mondo come mondanità, come storia con la S maiuscola, è Auschwitz. Auschwitz è l'incarnazione più alta di quello che è il mondo. Allora, all'interno di Auschwitz, se io come donna o come uomo passo dalla porta Carraia e faccio un'emancipazione per cui mi danno il grado per aprire e avere il privilegio di aprire i forni crematori, voi capite che è difficile che io vi possa convincere che ho fatto una grande emancipazione. Sì, posso vantarmi tra di noi, finché siamo dentro Auschwitz posso dire al portiere che ho fatto carriera. Tutte le carriere, dice Carlo Alonzi, all'interno del sistema maschile, sono carriere all'interno di un lager. Per cui se raggiungi il potere come donna, raggiungi il potere maschile come donna, non raggiungi quello che per lei dovrebbe essere il non potere, l'uscita dal potere. Allora, prima frase, diciamo, primo prontuario, spero di essere stato chiaro, anche se forse un po' brutale. Non emancipazione, ma liberazione. È una cosa radicalmente diversa. Chiaro. E qui capite perché dice a Carlo Alonzi non devi fare la carriera artistica. La carriera artistica sta all'interno di tutte queste bellissime attività. Secondo punto. Deculturazione, decultalizzazione, deculturarsi. Significa l'abbandono di tutta la cultura occidentale. Sputiamo su Hegel. Cioè, tutte le categorie culturali che utilizziamo sono DNA maschile e patriarcale. Non ne usciamo. Come vedete ancora l'invito a uscire fuori. Uno dei più grandi pilastri del femminismo di Carlo Alonzi è la rinuncia alla cultura. Sapendo individuare che in tutta la storia culturale, e lei ci mette l'arte, abbiamo il DNA e la traccia della storia maschile. La deculturalizzazione porta all'esaltazione di Santa Teresa di Lisieux, e cioè a essere minori. Minori significa proprio minorenni, analfabeti. Lei è per una sorta di analfabetismo. Non le piacciono le comunità, le riunioni di congressi di femministe, pure lei che l'ha creato il femminismo, non le piacciono i libri in cui ci si confronta con Hegel, ha scritto molto chiaro, sputiamo su Hegel, dobbiamo uscire da quel sistema, non c'è salvezza. E vi dico che qui siamo appena alla parte più soft del pensiero di Carlo Alonzi. E poi metterei come terzo punto, partendo da una frase che vi farà, spero, capire perché lei arriverà a queste conclusioni. Scrive Carlo Alonzi questa espressione nel suo diario. Piango per lo sconforto di sempre. Sconforto di secoli, di millenni. Sconforto della mia specie. Il pianto sulle donne è un pianto millenario. Cioè una storia di secoli, di secoli, di secoli. Questa sembra molto banale. No, sembra banale, cioè nel senso che è facilmente concepibile. La storia della sottomissione delle donne, cioè il potere maschile, non è una storia di 10 secoli, è una storia di 1000 secoli, 3000 secoli. Cioè una storia immensa, rileggo la frase e poi cerchiamo di capirla, piango per lo sconforto di sempre. Sconforto di secoli, di millenni, sconforto della mia specie. E Alonzi si fa una domanda. Dov'è la donna? Attenzione, questa è la domanda. Dov'è il femminile? Cioè, mi spiego. E ritorno a chiedervi un po' scusa perché comincia a diventare abbastanza violento il discorso di Carlo Alonzi. Le donne, dice Carlo Alonzi, le donne che abbiamo noi, che sono presenti in quel momento, sono frutto di una spietata millenaria selezione della specie. Cioè, gli uomini, molto chiaro, hanno sposato nei secoli, hanno fatto in maniera tale di scegliere solo donne succubi, devote, fragili, portate alla dedizione, altrimenti rimanevi zitella. O andavi a rogo, o dovevi fare la strega, o dovevi entrare in una clausura. Cioè, Carla Lonzi si rende conto di un fatto, che questo pianto è il pianto dello sterminio del femminile operato nella storia maschile. Come succede per le specie animali, per cui non posso tenere nel mio gregge qualche capo che sia ribelle, disubbidiente, non allineato, l'uomo non ha fatto nient'altro che gratificare dell'onore dello sposalizio, dell'onore di essere sposa, le donne che avevano delle caratteristiche molto precise. Le caratteristiche delle donne devono essere debolezza, tra virgolette, essere accondiscendenti, avere una, come si chiama, propensione naturale al servilismo e alla dedizione. Essere contente di uno stato di succubi. Essere soprattutto non ribelli, autonome, indisciplinate, fastidiose, irritanti e forti. Quelle faranno la fine che si meritano, cioè non possono entrare nello statuto sociale. Abbiamo un sistema molto chiaro, dice Carla Lonzi. Facciamo il modello che è durato fino al 1960, direi fino al 1980, io devo dire senza vergognarmi fino al 2026. Ed è uno, però andiamo un pochino più indietro, per secoli. Carla Lonzi fa una storia molto chiara. Potere sessuale dell'uomo. Il potere sessuale si gestisce in maniera molto semplice. La donna deve venire vergine al matrimonio perché non può fare confronti, se no io perdo. Ah, dobbiamo considerare, qui chiedo scusa agli uomini, che l'80%, il 70% degli uomini soffrono di eiaculazione precoce. E se non avessi una donna educata al silenzio e al non confronto, noi avremmo l'80% degli uomini, come accade, in crisi totale riguardo alla propria mascolinità. Non sarebbero in grado di gestire neanche l'antipasto della sessualità femminile. Dunque, se io ho una vergine, il modello sessuale è quello che lei conosce da me, finito. Finito, non ci sono confronti, non mi può volgere uno sguardo di disprezzo o di domanda del tipo: ah, è questo il tuo potere maschile? Ricordatevi che tutte le forme di forza nascono da un complesso di inferiorità, eh? Cioè, perché siamo stati così feroci? Perché siamo così feroci? Il complesso di inferiorità è per paura, viene il terrore, dal terrore si genera terrore. Considerate cosa è stato poi l'alleanza con la religione, con la morale, il ricatto morale. Se non ubbidisci a questa ubbidienza, la pudicizia, la fedeltà al marito, la vergogna dell'adulterio, eccetera, hai il ricatto morale. Come si gestiva ancora la forza maschile? Attraverso il denaro. Se dipendi da me dal punto di vista economico, voi potete immaginare che è un'espressione sessuale, un'espressione di potenza fallica. Allora, il pianto di Carla Lonzi riguarda la scomparsa del femminile, cioè le migliaia e migliaia e migliaia di donne eliminate dalla selezione feroce dell'uomo che ha ammesso all'interno del proprio gregge, della propria coltivazione, solo le donne che hanno delle caratteristiche ben precise. Ah, se non hanno queste caratteristiche, è chiaro, abbiamo tanti sistemi, che può essere la condanna, la stregoneria, la prostituzione, diventa una prostituta, abbiamo la donna dannata, ci si mette un secondo, ci si è messo a risolverlo. Se proprio va malissimo, le chiudi in convento, no? Ci penseranno all'interno dei conventi. Non immaginate il modello di Gertrude, fantastico, di Alessandro Manzoni, è veramente molto più numeroso di quello che non immaginiamo, cioè personalità fortissime che non avrebbero, al di là del problema delle doti, della dote, potuto gestire il rapporto con il marito. È chiaro che se va in crisi questo sistema fa uscire di testa il maschile, cioè lo fa impazzire. Ora, il pianto dunque della Lonzi riguarda tutte coloro che sono state eliminate. E un altro elemento che mi fa capire il problema dell'autocoscienza in Carla Lonzi: ritrovare il femminile. E facciamo un altro piccolo passaggio arrivando agli ultimi due punti, cerco di essere veloce. Il passaggio è questo: per Carla Lonzi la donna com'è, cioè come lei la sta analizzando in quel momento, è tutta una creazione del maschio, è una creazione nostra, che diventa veramente tragico. Così capite la tua coscienza a cosa serve. Cioè, tutto il suo comportamento è nato da una educazione di millenni, di secoli dei secoli, a corrispondere al modello che voglio io. Dunque è una mia creazione, è una creazione del maschile. A questo punto la domanda diventa tragica: dov'è il femminile? Cos'è il femminile? Lonzi a un certo punto si inoltra nel campo di una notte oscura alla ricerca del femminile, cioè chi sono, o meglio chi sarei, se non avessi subito questa forma di igiene culturale, religiosa, morale che ha portato a un genocidio del femminile. Il femminile è il frutto di un immane genocidio. Ovviamente lei ci aggiunge l'educazione della bambina, no? All'interno della famiglia, i rapporti con il fratello. Vi ricordo che in Carla Lonzi la massima responsabilità del patriarcato è data alle madri, perché le madri sono quelle che più sono convertite al patriarcato, sono le peggiori, detto così, sono le peggiori perché adorano il figlio maschio, perché lo educano alla presunzione, alla superbia, perché ne fanno una proiezione fallica, non c'è bisogno che vi ricordi tutto Freud, perché portano il carrozzino con il loro figlio maschio come se portassero Gesù Cristo ogni volta. Guardatele. Non si possono vedere, dice Carla Lonzi, le madri. Le madri sono le serve ubbidienti del patriarcato. Dunque non è che nelle madri noi troveremo salvezza. Sentite, dobbiamo uscire. Uscire totalmente. Ecco questa cosa di angoscia in Carla Lonzi. Uscire. Come possiamo uscire da questo lager? Come possiamo ricominciare tutto da capo? Questo era il motivo per cui aveva scritto a Pierpaolo Pasolini. Amava molto Pasolini. Carla Lonzi, non so se sapete, ha scritto una lettera, ma Pasolini non ha risposto, per un motivo anche molto semplice, che dopo 3 mesi viene ammazzato allo scalo di Ostia. La scrive nel 75, dopo l'intervento di Pasolini sull'aborto, in cui Carla Lonzi dice a Pasolini: io femminista, noi femministe, siamo nel 75, sono da 5 anni che diciamo quello che dici tu, ma noi non ci ascolta nessuno. E lo chiama il mio fratello ideale. Anzi, da una bellissima definizione di Pasolini: fratello proibito. Pasolini è il fratello proibito, cioè quel fratello che vorresti, a cui puoi dire tutto, a cui puoi rivelare. Lui ti rivela una cosa importantissima: ti rivela il male odore del maschile. Solo con un fratello proibito puoi accedere alla verità estrema e imbarazzante del potere della presenza fallica del maschio. Ora, Carla Lonzi si rivolge a Pasolini come l'unico che possa comprendere questo discorso, perché stanno discutendo di un altro problema. E il problema è questo: il divorzio, l'aborto, l'emancipazione della donna che lavora, la macchina, gli elettrodomestici. Carla Lonzi si chiede: emancipazione? Ma ricordatevi il primo punto che vi ho detto: ci può essere, non ci deve essere emancipazione, ci deve essere liberazione. Allora, Carla Lonzi ritiene che queste siano tutte conquiste che fanno parte del meccanismo perverso del patriarcato per inglobare il femminile. cioè ritiene che i comfort della donna nella sua vita domestica, nella sua vita interpersonale, non sono diversi che discutere qui in questo momento della carta da parati da mettere ad Auschwitz. Sono solo decorazioni, lei le chiama comfort. Ad esempio, ritiene che tutto ciò che fa dimenticare la sudditanza. Lei ritiene una cosa, possiamo fare l'aborto, d'accordo, rimarrà sempre un problema addossato alla donna. Dice con una chiarezza estrema. Tocca all'uomo, se non per la vanità della sua sensibilità presunta. Dunque non può essere gestito dagli uomini. Molto radicale su questo. Ritiene che tutte le nuove conquiste sono conquiste che servono a far dimenticare alla prigioniera di essere una prigioniera. Servono a illuderla che le cose stanno cambiando. Poi noi ogni giorno diciamo, ma perché dietro l'angolo c'è il patriarcato, c'è il maschilismo, c'è la violenza, c'è il femminicidio, c'è... Siamo nel 2026, qui stiamo parlando del 1970. No, cos'è che non sta funzionando? Ora, Carla Lonzi si scaglia contro tutto ciò che vi dà, perché ovviamente lei si rivolge ormai alle donne, ci dà alle donne una illusione che le cose stanno cambiando. E sono, riassumo, finisco. L'emancipazione, i comfort, il divorzio, gli elettrodomestici, il lavoro, lo dice anche in maniera un po' banale. Sì, lavoro più casalingo, non è che cambiano le cose, cioè ti occupi della casa e più vai anche a lavorare, per cui anche, anzi, doppiamente sfigata, se si potrebbe dire. No, anche, pure male, immagino. Per l'uomo è un grande vantaggio. Se sono lei detesta gli uomini che sono progressisti femministi, chiaramente sono sempre maschilisti, un po' truccati, che riescono addirittura ad avere non solo la moglie che lavora, ma che fa pure la casalinga, che è veramente un vantaggio straordinario, doppio stipendio più servizio a casa, non c'è, oppure che si occupa della crescita, dei figli. Ovviamente deve solo augurarsi, dice Carla Lonzi, l'uomo che non nasca il figlio maschio. Chi di voi ha esperienza come padre di un figlio maschio sa che il figlio maschio è il nuovo amante, marito e convivente della madre. Sempre, sempre. Perché vedo che c'è una risonanza. Se a un padre nasce un figlio maschio, lui ha terminato, cioè comincia a ricapire che cos'è il millenaria presenza del femminile. E quando poi ovviamente si affaccia la potenza del femminile, non ce n'è più, cioè, abbiamo Medea, non c'è più per nessuno, d'accordo? Ma ricordatevi la ballata delle madri di Pier Paolo Pasolini, dove lui accusa le madri proprio di questo, cioè in questa maniera voi non fate nient'altro che propagare il maschilismo, in maniera fortissima, che sono i figli maschi. Che oggi possiamo dire in maniera sempre molto banale, viziatissimi, al centro di un'attenzione straordinaria, come se ogni volta fossero il Messia che è arrivato in casa e che dovrà liberare. Se parla molto diventerà un grande avvocato, se corre diventerà un grande corridore, se disegna diventerà un grande artista, e voi avete questa serie di imbecilli che sono pieni e gonfi delle considerazioni che hanno avuto le loro madri. E termino ricordandovi, vedrete qui in mostra di Carla Lonzi i libri di riferimento, ho lasciato solo un argomento per motivo di tempo, ma potete approfondirlo, che è uno dei più interessanti, ma anche un po' dei più spinosi per parlarne anche per me come uomo, che è La donna clitoridea e vaginale. Vi ricordo solo che in questo il testo fondamentale, veramente di quelli importantissimi, Carla Lonzi ritiene che l'orgasmo, il piacere sessuale imposto dall'uomo fallico, ha sovrapposto alla donna clitoridea, alla donna vaginale, e cioè è per l'eliminazione della sessualità attraverso l'atto fallico. l'atto fallico, che è stato un atto che aveva funzione di procreazione, è stato trasformato come realtà e come simbologia, come atto di sorpruso. Per Carla Lonzi ogni atto sessuale maschile, ogni atto sessuale, anche il più amoroso, è un atto di violenza. Sempre. Sentite che qui cominciamo ad aggirarci in territori difficili. L'atto sessuale in sé, quello compiuto a livello fallico, è violento ed è sempre, sempre violenza. Comprendete che a questo punto anche per chi sta vicino a Carla Lonzi diventa difficile seguirla. Ecco perché noi l'abbiamo messa come una scheggia del francescanesimo, a qualcosa di radicale, a qualcosa in cui ci invita comunque a ripensare tutto da capo. Cioè, attenzione, non cadete, dice lei, nel tranello della emancipazione, non cadete nel tranello delle conquiste. Sono solo illusioni. Dobbiamo anche uscire da tutto il sistema filosofico. Vi ringrazio, terminerei qua così. Grazie.